Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. È arrivato il momento di presentare anche oggi due progetti innovativi, sono start-up, sono progetti sociali che cercano il vostro aiuto, cari ascoltatori, l'aiuto di tutti per un finanziamento dal basso. Uno è un progetto che riguarda un comune e l'altro invece è un normale progetto sociale ed impresa. Andiamo a raccontare il primo di questi due progetti, ricordando che abbiamo quanti giurati in linea, credo un paio, Andrea da Treviso e Raffaele da Treviso. Oggi c'è una concentrazione sul nord-est. Andiamo col primo progetto. E allora, si chiama Insieme Facciamo un'impresa, è un'innovativa iniziativa del comune di Capannori che da quest'anno utilizzerà proprio il crowdfunding, cioè la ricerca di finanziamento dal basso tramite la rete, per raccogliere contributi da destinare alle piccole e medie imprese. Le migliori idee imprenditoriali verranno pubblicate su Eppela. Chi raggiungerà il 75% del finanziamento dal web avrà il restante 25% dal comune. Il comune quindi che dà una mano alle iniziative imprenditoriali che otterranno però il consenso della rete. Ce ne parla Lia Chiara Miccichè, assessore all'innovazione del comune di Capannori. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Eccoci qua. Un minuto, poco più, per spiegare perché, anche se in questo caso non è un progetto questo in sé di crowdfunding, ma è un, come dire, un progetto di progetti. Sentiamo come ce lo racconta l'assessore. Esatto, quello che si vuole dare alle nuove imprese, alle nuove idee, è proprio una filiera di supporto. Quindi non solo un fondo, come avete ben detto voi, chi arriva al 75% sulla piattaforma riceverà il 25% da parte del comune, ma naturalmente un supporto da parte di Eppela per quanto riguarda l'accompagnamento di queste idee progettuali proprio per inserirsi nell'ambito del crowdfunding, e poi con una partnership con Unicop Firenze si daranno anche spazio per la distribuzione, quindi proprio un supporto a 360 gradi per le nuove aziende. Abbiamo scelto dei settori che sono di particolare interesse per l'amministrazione, quindi artigianato innovativo, riuso, economia circolare, sharing economy, nuove tecnologie, agricoltura. Siamo sul gong, oltre al gong. Benissimo, comunque l'assessore ha spiegato quasi tutto, direi. Insomma, queste imprese però ci sarà prima un filtro anche da parte vostra e di Apple, vero? Certo, ci sono dei punti, c'è un bando con dei criteri. Abbiamo fatto una selezione appunto che dia parecchi punti alla novità del progetto. Benissimo. Così come la validità tecnica e l'adattabilità al crowdfunding, ovviamente. E quindi Insieme Facciamo un'impresa del Comune Capannori era il primo progetto. Giurati, restate concentrati, Andrea e Raffaele, perché adesso vi presentiamo la seconda iniziativa. Si chiama Addento ed è il progetto di 8 ragazzi che hanno inventato le cricchelle. Attenzione, è uno snack simile a un cracker, ma è arricchito dal 20% di farina di grillo, gli insetti, il cibo del futuro secondo la FAO. Grazie al crowdfunding vorrebbero commercializzare le cricchelle su scala nazionale ed europea, ma soprattutto promuovere l'entomofagia, che appunto è la pratica di mangiare insetti. Il traguardo da raggiungere è di 10.000 euro. E ce ne parla Guglielmo Gori, che è uno dei fondatori di Addento. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Addento ma scricchiola, io voglio sapere tutto di questa cosa dei grilli. Vai, un minuto, poco più. Allora, come avete ben detto voi, Addento ha come obiettivo quello di introdurre nel mondo occidentale l'entomofagia. Lo facciamo appunto con la cricchella, ovvero un cracker dal gusto mediterraneo arricchito da un 20% di farina di grillo. Ora immagino le facce un po' perplesse di chi ti ascolta. Sì, sì, sì. Ebbene, gli insetti mangiati da più di 2 miliardi di persone sono degli alimenti eccezionali per due motivi. Sono proteici e nutritivi, hanno un 69% di proteine a peso secco, i grilli, e più del doppio della bresaola, poi sono ricchi di vitamine B12, ferro e minerali, e poi fanno bene al nostro pianeta. La produzione di un chilo di carne bovina più o meno richiede 15.000 litri di acqua, la produzione di un chilo di grilli ne richiede meno di 10, senza poi parlare di emissioni CO2 e consumo di terre emerse. Il risultato viene da sé, le cricchelle sono un'ottima alternativa alla proteina della carne, fanno bene a te e al pianeta. Quindi con la campagna Eppela vogliamo raggiungere questi 10.000 euro per industrializzare il prodotto, immettere nel mercato la cricchella e andare oltre al tabù culturale relativo all'entomofagia. Bravo Guglielmo! Ma di che cosa sanno i grilli? I grilli hanno un sapore interessante, mangiati così tostati ricordano molto la nocciola fondamentalmente. Guarda, devo ammettere che io sono uno che si stupisce molto di tutta questa questione dei grilli, però se ci penso, nel senso che io dimmi, io direi ma come si fa a mangiare un grillo? Però è un po' assurdo, perché mangiamo tranquillamente, che ne so, un vitellino col quale magari c'è anche dell'empatia e quello ce lo mangiamo, e invece mangiare un animale col quale c'è meno empatia, tipo lo scarafone, effettivamente forse sarebbe sano mangiarli. Quindi ho dei grossissimi dubbi, ma sono curiosissimo. Va bene, allora cari ascoltatori e i giurati, vi ha convinto di più il progetto di Capannoni, che con il crowdfunding vuole aiutare le piccole e medie imprese, oppure il progetto di Addento, che vuole introdurre l'alimentazione a base di insetti anche nel nostro paese? Comincerei con Andrea da Treviso. Andrea, quale dei due progetti ti ha convinto di più? Sì, interessante alla seconda, però la prima di Capannoli è sicuramente la migliore. Perché insomma l'impresa va aiutata, voi che chiamate dal nord-est lo sapete benissimo. Andrea, grazie. Grazie. Raffaele, anche lui guardi, da Treviso. Io le dico che onestamente sì? Molto interessante la prima, però sono molto attratto dalla seconda, proprio perché la seguo curiosità. Un'alimentazione del genere. Ah, sì? Devo dire che onestamente, sì, già la seguo da qualche tempo. Già devo mangia insetti che... Raffaele? Sì, mangio insetti, ma l'ho mangiato per puro caso stando all'estero, e devo dire che poi vado alla ricerca in alcuni negozi, diciamo, della zona, se ne trova già qualcosa, ma... sono veramente interessanti, estremamente proteici, si riesce a mangiare meno. Ma è stupendo, ma scusi, ma li mangia sotto forma di farina o mangia proprio l'insetto, nel senso che porta a tavola 4 o 5 scarafoni? Sotto, chiaramente non ci riuscirei, dovessi mangiare in forma di insetto. No, le devo dire, praticamente mangio sotto forma di farina, sotto forma di prodotti, e posso dire che sono dei dolci a base di... è una specie di formica che si trova praticamente in Asia, e si fa un dolce che è favoloso, meraviglioso. Guglielmo Gori, il famoso formicaio di Addento. Avete trovato un testimonial in Raffaele da Treviso. Oggi i giurati erano due, c'è un ex aequo, quindi un pareggio perfetto. I due progetti Capannoli e Addento hanno entrambi ottenuto un voto. Noi anche perché ricordiamo che non è che c'è uno che vince e uno che perde, quindi trovate entrambi i progetti sulla piattaforma di Eppela e anche sul sito di Radio 24, la pagina si può fare crowd me. Io ringrazio l'assessore di Capannoli all'innovazione, Lia Chiara Micichè, grazie. E Guglielmo Gori del progetto Addetto. Grazie. Voglio una cricchella. Complimenti a tutti. E Cloud Me Up torna sabato prossimo, naturalmente. 800 24 00 24. Noi ci fermiamo per traffico. Torniamo tra poco. Cloud Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela.